Allora, sulle note di quella che ormai da anni funge da sigla di Maldestro, ovvero la memoria dei Senza Sicura, andiamo a iniziare questo spazio, magari un po' light di Maldestra, visto che sarà una finestra un po' più breve del solito, di questo appunto martedì 5 aprile. Non lo so, su questo treno vecchio come in silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire. Cerchiamo di collegarci con la nostra voce al telefono che ci andrà a proporre una riflessione su cui discuteremo. Poi, nel corso appunto di questa finestra, andiamo a ricordare un appuntamento, a dare lettura anche di un appuntamento noto questa mattina che prende un po' i passi da quello che era stato la mobilitazione nel giorno delle Fosse Ardeatine, ovvero la mobilitazione antifascista che aveva interessato il territorio di Ostiense, nello specifico di Roma 3, quando all'interno dell'Ateneo, più nello specifico nella facoltà di lettere, i neofascisti avevano provato ad organizzare un'iniziativa, mascherando appunto come iniziativa culturale sul futurismo, invitando poi una serie di personaggi noti del neofascismo più o meno legati a Casa Pound, un'iniziativa che era saltata per la determinazione dei compagni che avevano detto che ovviamente dei compagni degli studenti e delle studentesse di Roma 3 che avevano annunciato che non avrebbero consentito che quel territorio venisse infangato in quella giornata, avevano organizzato un presidio dalla mattina stessa. Adesso i fascisti ci riprovano e si ripropongono nella giornata del 7 aprile, ovvero di giovedì. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore. Non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi, il vento mio. E allora andiamo a dare lettura proprio del comunicato che questa mattina gli studenti e le studentesse di Lettere e Filosofia di Roma 3 hanno iniziato a far girare, ovvero 7 aprile difendiamo la memoria della Resistenza, respingiamo la provocazione fascista di Casa Pound. Per il giorno 7 aprile i cosiddetti fascisti del terzo millennio, facenti capo a Casa Pound, hanno riproposto, mascherandola da iniziativa pseudoculturale, l'ennesima provocazione. Il giorno della memoria dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, gli squadristi avevano avuto l'autorizzazione dell'Ateneo di Roma 3 per discutere di futurismo con noti esponenti dell'estrema destra. Grazie alla mobilitazione delle realtà antifasciste romane, l'iniziativa era stata sospesa, ma ora si ripropone come se nulla fosse, con il beneplacito delle istituzioni. Gli studenti e le studentesse di Roma 3 invitano ancora una volta tutta la Roma democratica ed antifascista a difendere la memoria e di valori della Resistenza, partecipando al presidio delle 11 presso la facoltà di lettere Roma 3 e all'iniziativa sulla Volante Rossa alle 15:30. L'appuntamento è presso la facoltà di Lettere e Filosofia, appunto, di Via Ostiense 234, metro B Marconi. La firma è di Rete Lettere, studenti e studentesse di Lettere e Filosofia di Roma 3. Si chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chahut. Viens. Tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra. Je suis avec toi, mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Quindi sicuramente poi nella mattinata di giovedì continueremo a seguire dai microfoni di questa radio l'andamento delle manifestazioni. Anche probabilmente nella giornata di domani daremo ulteriori aggiornamenti. L'invito ovviamente che viene anche da questa trasmissione è quello di partecipare al presidio appunto nella mattinata alle 11 di giovedì mattina presso la facoltà di lettere appunto di Roma 3. La mère des enfants perdus. se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la ruse, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chalut pour monter en grade. C'est volatile comme but des valises, mais non pas lise quoi. Ça t'aide à futer ta malice, mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi. Mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde, je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études, et toi, tu me chantes des louanges. Certains font même des raps sur moi. Pour convaincre les indécis qui doutent de mes vertus, je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sûr à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chalut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Te perdre dans mon chalut. La rue t'élève et te tue. C'est pas ta mère, et si tu crèves, la mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. La route t'élève et te tue. C'est pas ta mère, et si tu crèves, elle aura tout. La mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop. Ancora qualche istante di musica per risolvere un po' di problemi tecnici in corso in questo momento. Tanto questo sono i Mescaleros insieme a Joe Strummer con Redemption Song, insomma, tra qualche minuto. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs. Songs of freedom, these songs of freedom. We're taught that after the war the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists, they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies. Non si sente più, non esce mai la sera, tanto meno se c'è aria di bufera. Sempre il primo lui a essere coinvolto, ora non c'è più o finge di essere morto. Bella tipa lei, da furba l'ha blindato, negli schemi che l'ha sempre rifiutato. Non è amica più, la chiama già mia moglie. Vuoi vedere che tra poco avrà le doglie? Sempre strada senza starci a preoccupare della notte o dell'età. Troppe cose ancora devono cambiare. La sua rabbia è vera e siamo sicuri che prima poi ritornerà. Capirà che le belle non cambia mai. Capirà che le belle non cambia mai. Se chiede un lo per andare a tacchinare, scrivi in fretta dai, ci possono beccare. Era esempio da seguire e rispettare. Ora dice a noi, dovete maturare. Sempre strada senza starci a preoccupare della notte o dell'età. Troppe cose ancora devono cambiare. La sua rabbia è vera e siamo sicuri che prima poi tornerà. Capirà che il livello non cambia mai. Capirà che il livello non cambia mai. Allora, alle 12.41 di questa doveva essere una trasmissione light, e lo è stata, ma più che altro perché è stata funestata da una serie di inconvenienti tecnici. Siamo finalmente in collegamento con quella che era anche la voce con cui avremmo interloquito quest'oggi, ovvero il nostro redattore telefonico. Intanto verifichiamo se ci senti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, io ti lascio anche ormai tranquillamente introdurti da te. Avevo accennato che parleremo di islamofobia, ne parleremo in qualche modo, visto che poi è questo un po' il leitmotiv di un po' tutte le destre radicali che in qualche modo sfondano ormai in tutta Europa e non soltanto. Quindi lascio che tu stesso introduca l'argomento. Sì, perché diciamo qualcosa sta accadendo ormai in, un po' in tutto il mondo, nel senso che si sta producendo, diciamo, una sorta di trasformazione di quello che è stato il vecchio fenomeno della xenofobia e quant'altro, in una prospettiva che in qualche modo, più che diciamo, stigmatizzare gli immigrati, trasforma l'immigrazione tout court nei paesi occidentali in un'immigrazione musulmana e se la prende con l'Islam. Questo, diciamo, per dirlo in estrema sintesi, cioè che cosa sta accadendo? Sta accadendo che sempre di più in giro per il mondo, nel mondo occidentale, in Europa, negli Stati Uniti, coloro che vogliono diciamo stigmatizzare la presenza di quelli che considerano stranieri alle tradizioni del paese, definiscono questa presenza, spesso paragonata a una sorta di invasione, come un elemento religioso e culturale non incompatibile, diciamo assolutamente non compatibile con le tradizioni culturali del paese ospitante. E questa trasformazione contiene una sfida molto evidente, perché come abbiamo visto già in alcuni esempi, penso al caso di Pim Fortuyn e poi di Vicky Kiltvelders in Olanda, ma non è il solo. La polemica contro gli immigrati era una polemica esplicitamente xenofoba, se non razzista. La polemica contro la presenza dell'Islam, il dibattito sul velo, le preghiere nelle strade, il fatto che questa è una religione militante e quant'altro, rischia di raccogliere anche un'opinione pubblica non necessariamente schierata su posizioni razziste o all'estrema destra, ma di sedurre anche coloro che ritengono che, diciamo, il ritorno della religione nella sfera pubblica, nelle società occidentali che hanno vissuto un lungo processo di secolarizzazione, vale a dire il processo secondo il quale la religione ritorna ad essere una cosa che riguarda la sfera individuale, minaccia dei diritti acquisiti, ad esempio i diritti delle donne. Questo tipo di problema è un problema che chiaramente quindi va al di là della destra radicale, rischia perfino di sedurre, come è stato il caso della Francia, anche gli ambienti cosiddetti repubblicani, cioè coloro che intendono difendere, costi quel che costi, i principi della laicità dello Stato. Ecco, questo è un quadro, chiaramente un quadro sommario sul quale varrà la pena riflettere anche in futuro, ma che già ci dice alcune cose. Ci dice, cioè, che questa è intanto una sorta di offensiva internazionale, non un'offensiva nel senso che sono uguali, c'è dietro una regia, un'organizzazione centralizzata, ma è un sentire che sta attraversando molte società. Lo sappiamo, è storia dell'ultima settimana, negli Stati Uniti alcuni pastori protestanti più o meno estremisti hanno deciso di bruciare alcune copie del Corano. Ce n'era uno che aveva minacciato di farlo già in occasione dell'11 settembre di quest'anno, del 2010 ovviamente, era sceso in campo lo stesso presidente Obama per scongiurare, diciamo, che questo avvenisse. Adesso un altro collega, diciamo, di quel pastore, un altro prete, diciamo, evangelico, ha deciso di fare lo stesso. Risultato: in varie parti del mondo, soprattutto Afghanistan e Pakistan, ci sono stati morti, feriti, manifestazioni e quant'altro. Dopodiché, spostandoci sul terreno invece europeo, questo elemento della critica e della stigmatizzazione dell'Islam sta trasformando un po' il discorso pubblico delle destre tradizionali, conservatrici. Il primo è stato David Cameron, che ormai un mese fa ha, tra l'altro, cogliendo l'occasione di un incontro a Monaco di Baviera dell'Organizzazione per la Sicurezza e lo Sviluppo in Europa, quella che si occupa anche in qualche modo delle politiche interne del continente europeo, il leader conservatore ha detto che il multiculturalismo è finito, noi abbiamo troppo relativizzato le culture diciamo di chi veniva in questo paese, senza spiegargli che per integrarsi davvero nel Regno Unito si deve partire dalla tradizione democratica, la tradizione culturale, in qualche modo anche le tradizioni religiose che sono quelle protestanti maggioritarie nel Regno Unito. In qualche modo un mezzo secolo di multiculturalismo, l'idea cioè che le culture si potessero sviluppare con un centro comune, quello del rispetto di regole condivise, ma poi in qualche modo ciascuno facendo quello che voleva dentro casa propria, finisce con questa battuta, e si annuncia una politica del governo britannico all'insegna del che cosa vuol dire essere inglesi, e sappiamo che quando le politiche pubbliche si svolgono all'insegna dell'identità, insomma, in noi spesso si costruiscono veramente la prospettiva e le possibilità per degli esiti molto, molto gravi. Allo stesso modo il dibattito pubblico in Germania, con la prospettiva di prossime elezioni, il prossimo anno nazionali, corre tutto verso la questione appunto di come gestire questa forte presenza straniera in Germania, in particolare la presenza turca, che guarda caso è ancora una volta una presenza musulmana. E tra l'altro proprio in Germania c'era stato anche un po' quel banco di prova europeo di provare a fare appunto quella manifestazione a Colonia, che in qualche modo andava a parlare proprio di questi temi con le forze che in Europa le agitano, no? Sì, diciamo che la Germania è stata appunto a Colonia, ha fatto da apripista per l'organizzazione di un grande network europeo. Per l'Italia c'era tra l'altro la Lega Nord, che rientra perfettamente, diciamo, in questa geografia islamofoba, soltanto che quel livello era un livello in qualche modo che metteva insieme i partiti più radicali. Quello che sta accadendo adesso è che quel tipo di segnale è stato raccolto da, diciamo, i partiti di governo. È vero che la Lega nel nostro paese è al governo, ma in qualche modo nel quadro europeo partiti così radicali tendono ancora a rimanere sulla porta del potere. E quindi che cosa succede? Succede che, appunto, per esempio un paese come la Germania, dove già appunto si era posto il problema del troppe minareti, troppe moschee a Colonia, una delle più grandi d'Europa, manifestazioni e quant'altro, prima un importante dirigente, presidente adesso della banca tedesca, si chiama Sarasin, che tra l'altro è stato nominato, è arrivato lì diciamo con una carriera da dirigente funzionario del Partito Socialdemocratico, un uomo quindi di sinistra, di centrosinistra, ha fatto un libro dicendo c'è un problema con gli immigrati, c'è un problema con l'Islam in questo paese, ed è diventato improvvisamente lui, da uomo di sinistra, un punto di riferimento invece delle destre anche estreme. Ha lanciato il sasso che in qualche modo ha ripreso rapidamente anche la stessa Angela Merkel, che ha cominciato a dire delle cose tipo quelle di Cameron in Inghilterra, cioè non è che qui adesso noi ci dimentichiamo di che cosa vuol dire avere una cultura di riferimento, eccetera. La cosiddetta light culture, la cultura di riferimento, era stato già all'inizio del decennio uno dei temi cardine, diciamo, del dibattito politico agitato dai democristiani, la coalizione, diciamo, che del partito di Angela Merkel è fatta da una Democrazia Cristiana a livello nazionale, dai cristiano sociali bavaresi, che sono sempre stati quelli un pochino più a destra, appunto nella regione della Baviera, nel sud della Germania. Il dibattito sulla cultura di riferimento aveva attraversato questi ambienti, che si erano posti già, diciamo, nel periodo successivo alla riunificazione. Diciamo in qualche modo il problema di identificare che cosa volesse dire essere tedeschi, lì si trattava di recuperare in qualche modo, si diceva così, alla democrazia, alle popolazioni dei Länder orientali, ma in realtà si guardava molto attentamente a quel fenomeno elettorale che a metà degli anni 90 con i repubblicani, la DVU e altri partiti, la NPD stessa, aveva segnalato che c'era un potenziale elettorale per i partiti xenofobi. Bene, 10 anni dopo questa questione, in qualche modo recuperato il voto xenofobo, è la stessa Angela Merkel che si chiede se non sarà il caso di rivedere qualcosa e di ragionare su questo. È un gioco di specchi, come sempre avviene, tant'è che recentemente il presidente turco Erdogan, in una visita in Germania, ha diciamo ricordato ai turchi che vivono in Germania, bene mandare i figli a scuola, bene integrarli, ma continuate a parlargli il turco in casa, come a dire che a delle destre che chiedono in Europa che si continui a considerare un po' stranieri quelli che vivono a vivere qui, ecco che rispondono delle destre o un centrodestra come quello di Erdogan in Turchia, che dice sì, fate pure gli immigrati, però rimanete turchi, no? Guardate come a volte questi elementi identitari sono assolutamente simmetrici, pur essendo su posizioni differenti. E l'approdo di questa vicenda è sicuramente la Francia di Sarkozy, dove dopo aver discusso per tutto l'anno scorso inutilmente dell'identità nazionale di immigrazione, il presidente Sarkozy, sostenuto tra l'altro da un elemento, su questo prima o poi Maldestra tornerà, diciamo, con un focus, sostenuto da una serie di... Ti dico anche che sarà la settimana prossima, in realtà, te lo annuncio, quindi preparati anche. Perfetto. E sostenuto anche da intellettuali dell'estrema destra, nel senso che è poco noto, ma ci sono tra, diciamo, i metra pansé, le teste d'uovo della maggioranza di governo francese, alcune figure che vengono esplicitamente dall'estrema destra, che quindi sono transitate attraverso quei laboratori culturali che già da tempo, parliamo addirittura della metà degli anni 70, quindi insomma tantissimi anni fa, avevano detto qui o riconcentriamo tutta la nostra attenzione sul tema dell'identità oppure la destra non ce la farà più. Erano gli anni in cui trionfava, magari ritrionfavano i liberali oppure la sinistra, i socialisti di Mitterrand. Ecco, diciamo, l'approdo è in terra francese, dove Sarkozy sta lanciando questo dibattito sull'Islam, che è un terreno estremamente scivoloso, perché ancora una volta, dopo aver cercato l'anno scorso di dire ma siamo sicuri che quelli che arrivano oggi, gli immigrati di oggi, entreranno a far parte dell'identità francese, non saranno troppo lontani, non saranno troppo distanti da noi, e quando dico da noi intendo dire dalle tradizioni europee, dalle tradizioni religiose cristiano-ebraiche, eccetera, eccetera, no? E quindi chiaramente si stigmatizzava una parte della popolazione, quella dell'Africa subsahariana, quella asiatica o quella proveniente dal Medio Oriente. Adesso ci si riprova spostando l'attenzione sull'Islam, dicendo non ci sarà un problema di Islam in Francia, calcolando che la popolazione musulmana francese credo sia di un paio di milioni di persone, comunque è la maggiore comunità islamica fuori del mondo arabo e musulmano ed è una delle più grandi ovviamente in Europa. Questa questione rischia di diventare una questione di campagna elettorale, si vota tra una decina di mesi per il rinnovo della carica più alta del paese, il Presidente della Repubblica. Marine Le Pen da tempo fa campagna su questo, Sarkozy ha pensato bene di metterci la sua ipoteca. Ecco, tutto questo diciamo quadro riassunto piuttosto velocemente che cosa ci dice? Ci dice che è in atto in questo momento, e tra l'altro aggiungerei un elemento dimenticato all'inizio, proprio qualche settimana fa il congresso di Washington, abbiamo iniziato parlando dei pastori protestanti che bruciano il Corano, aveva fatto una seduta su richiesta di un parlamentare, di un senatore repubblicano, in cui si erano chiamati i rappresentanti delle associazioni islamiche e era sembrata una sorta di piccolo processo, diciamo, politico per saggiare la fedeltà ai valori della nazione americana degli islamici. Tutto questo appunto in questo clima post 11 settembre e prima che arrivassero i roghi del Corano, che era stato fortemente giudicato in modo negativo dalla stampa liberal, che aveva detto ma come, cioè i repubblicani vanno alla ricerca di un nuovo maccartismo, di nuovi capri espiatori, perché la sensazione era che appunto dopo aver lungamente stigmatizzato la presenza dei latinos, soprattutto degli immigrati messicani, il partito repubblicano nella sua guerra a Obama cercasse oggi di porre il problema appunto degli islamici. Tutto questo per dire che da molto tempo negli ultimi anni la accentuazione di questa enfasi anti-islamica sta progressivamente prendendo il posto della polemica contro gli immigrati, nel senso che in qualche modo sembra agitare nel clima del lungo periodo del post 11 settembre, che porta con sé tutti i fantasmi, dalla jihad globale alle donne velate, ai quartieri in cui si prega in mezzo alla strada, alle moschee che diventano più alte delle cattedrali e quant'altro, in questo fantasma estremo dell'alterità. Verrebbe da chiedersi, a conclusione diciamo del ragionamento, se quanto sta accadendo oggi nel mondo arabo non possa servire come contraltare, visto che ci si continua a parlare di un mondo musulmano minaccioso, nel momento in cui proprio da quei paesi si leva invece una primavera di democrazia, qualcuno dovrebbe dire beh, forse allora non c'è tutto questo pericolo. L'unico problema è che per fare questo ci vorrebbe una sinistra che in qualche modo ragioni sul fatto che la lotta per i diritti e la libertà è uguale in tutte le parti del mondo e che quindi anche la primavera del mondo arabo-musulmano, insomma, ci dovrebbe interessare, ma questo fa da sé, è tutto un altro problema, credo. Guarda, sei stato molto esoriente. Noi di tutto questo, poi in particolare della situazione francese, ma anche un po' su tutto, ritorneremo anche sicuramente nelle prossime settimane. Io, se non hai niente da aggiungere, ti saluterei, anche perché in realtà siamo anche piuttosto stretti con i tempi. Perfetto. E c'è ancora un'ultima cosa di cui vorremmo dire due parole. Alla prossima settimana, grazie mille. Ciao. alle 12.58 noi pensavamo di chiudere così maldestro, ma invece no, visto che è di questi minuti una di quelle notizie che poi fanno venire il sangue agli occhi. Ne parliamo con Emiliano dell'Horus Project, appunto, del Tufello, che dovrebbe essere in collegamento. Intanto verifichiamo se ci senti. Ci sei? Sì, ci sono. Ciao. Allora, ciao. Senti, ti lascio anche a te raccontare che cosa è successo questa mattina. Sì, semplicemente, questa mattina una ventina di militanti di Casa Pound, almeno quelli visibili, hanno occupato una scuola recentemente ristrutturata a Piazza Capri. Piazza Capri si trova praticamente sul Viale Ionio, al confine tra il Tufello e il Montesagro. In particolar modo a 100 metri dalla casa, a 200 metri dalla casa di Carla Verbano, e in una zona insomma piena di iniziative, progetti, occupazioni legate al movimento, centri sociali, l'occupazione dello studentato di Paz, la palestra popolare di Valerio Urbano, insomma tutto un patrimonio di lotte e di progetti che insistono su questo quadrante. Noi crediamo che questa è una provocazione ovviamente clamorosa. Anche perché tra l'altro, se non sbaglio, è un quadrante dove loro finora si sono distinti più che altro per sfregiare murales con le svastiche, sì, aggredire le persone sotto casa e poco altro. Sì, per la loro totale assenza o per le medie piccole aggressioni vigliacche che possono costruire, insomma, ma negli ultimi anni non si sono viste neanche queste, insomma, per fortuna. Ma giusto, sfregiano lapidi o fanno qualche scritta. No, il problema è che abbiamo capito che questa è insomma una mossa politica in combutta sicuramente col PDL centrale e cittadino e con l'amministrazione del PDL del quarto municipio, che scandalosamente ancora non dice nulla rispetto a un'occupazione di una scuola ristrutturata che deve andare per appunto la scuola, per la formazione, soprattutto in questo paese dove si distrugge la formazione pubblica, e invece questi fascisti hanno annunciato per domani una fantomatica risposta all'emergenza abitativa attraverso questa scuola. Allora, le parole stanno a zero. Noi invitiamo tutta la Roma democratica e antifascista, i movimenti, le forze sociali, politiche, insomma, che hanno a cuore la libertà e hanno a cuore i diritti di questa città, di vedersi alle 17 davanti casa di Carla Verbano, in via Montebianco. E ci stiamo muovendo per far sì che questo appuntamento sia un appuntamento di massa, per dire che insomma questa città e questo quartiere respingono queste provocazioni fasciste, e niente, faremo in modo che la forza, l'indignazione e la rabbia insomma sia presente sempre insieme al progetto, all'intelligenza collettiva, per cacciare questi fascisti dal quartiere, per istituire al bene pubblico, al bene comune della scuola, questo edificio. Quindi è importante la presenza di tutti e tutte, e ribadiamo alle 17 in via Montebianco. Va bene, noi ti ringraziamo, chiaramente raccogliamo questo appello, invitiamo tutti a partecipare e ne continueremo a parlare nel corso del pomeriggio ovviamente. Allora ci vediamo oggi alle 17 sotto casa di Valerio. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, ciao. Ciao. Allora, con quest'ultima comunicazione noi ci salutiamo, invitiamo ovviamente gli ascoltatori e le ascoltatrici a rimanere in collegamento con questa radio per capire anche gli sviluppi. L'appuntamento, ricordo per l'ultima volta, è alle 17 sotto casa di Valerio Verbano in via Montebianco contro la nuova occupazione di Casa Pound a 100 metri di distanza. L'appuntamento invece con questo spazio, l'Osservatorio Antifascista di Onda Rossa Maldestra, è per martedì prossimo 12:15 circa, come sempre. maldestra.noblogs.org invece è il sito. Adesso vi lasciamo un po' di musica e poi la consueta programmazione di Radio Onda Rossa. Un saluto a tutte e a tutti.